A bordo campo di Dario Ricci. Grande giocata di Messi, grande ancora, doppio tunnel, Messi vuole fare tutto da solo adesso, Messi attenzione, Messi punta l'area di rigore, Messi dribbling, Messi, che cosa sta facendo Messi? Destro, gol, 2-0, come Maradona contro l'Inghilterra, e scusate se il paragone può sembrare irriverente. E quante volte abbiamo cercato di capire tutti i segreti di quello straordinario calciatore che è Lionel Messi. Beh, il pallone tra i suoi piedi diventa veramente un'opera d'arte, ma in quella sapienza c'è anche tanta scienza. Piccola introduzione che ci serve per introdurre appunto l'ospite di A Bordo Campo di oggi, che è Nicola Ludwig, ricercatore dell'Università Statale di Milano, che studia sistemi di visione nell'infrarosso che sono impegnati anche nella diagnostica di performance sportive su atleti e animali. Benvenuto professor Ludwig. Buongiorno a tutti. Allora, il professor Ludwig insieme a Gianbruno Guerriero, che è un giornalista scientifico, hanno scritto a quattro mani un libretto che qualcosa in più del calcio di Lionel Messi ci fa capire, perché stiamo parlando di La scienza nel pallone, edito da Zanichelli, un libretto che si ripropone di analizzare il gioco e lo sport più amato del mondo sotto il profilo scientifico, vero professore? Sì, sotto il profilo, diciamo, delle scienze esatte, ecco, per essere precisi, nel senso proprio andiamo a analizzare la fisica del gesto del colpire il pallone, del lanciare il pallone o della parata, quindi non è la scienza del calcio, ma è proprio la fisica, la matematica, la statistica applicate per quanto si può ai gesti del calcio. Eh sì, insomma, tutta la scienza che c'è nel calcio, inteso proprio anche come gesto tecnico, meccanico. Per esempio, partiamo subito con le curiosità, che in queste pagine ce ne sono tantissime. Ci spiegate un po' dal punto di vista fisico e scientifico i segreti dei calci di punizione di grandi campioni come Ronald Koeman, che ad oltre 180 km orari quasi piegò le mani di Pagliuca in una celebre finale della Champions League, e poi le punizioni di Roberto Carlos, ecco, dal punto di vista fisico che succede quando campioni del genere toccano quella sfera magica? Ma dal punto di vista fisico avviene una specie di miracolo, sarebbe brutto dire da parte di uno scienziato, però avviene qualcosa di estremo, cioè avviene che l'uomo raggiunge un po' i suoi limiti, che è un po' la caratteristica dello sport ad alti livelli, cioè l'uomo agisce al massimo per modificare lo spazio che gli sta intorno, per esempio lanciare una sfera, ma una sfera particolare, è una sfera fatta non per volare, ecco, e infatti il pallone da calcio non è un oggetto balistico e quindi segue delle leggi un po' bizzarre che lo rendono anti-aerodinamico, quindi per esempio il calcio più potente, appunto il pallone più veloce del mondo, che è quello che ha citato lei, in realtà non è particolarmente veloce rispetto ad altre velocità che può raggiungere nel baseball o con la mazza da golf, per esempio, in altri sport, proprio perché è un oggetto non aerodinamico, e questo forse rende il calcio divertente, proprio perché si gioca con un oggetto strano. Eh sì, poi insomma andiamo a dirlo a Pagliuca che quel tiro non era troppo forte e magari ha qualcosa da obiettare. Sempre rimanendo in questa sfida tra portieri e tiratori, che è un po' uno dei segreti di questo sport, nel vostro libretto insieme a Gianbruno Guerrieri o professor Ludwig ci spiegate che il duello del calcio di rigore non è poi così svantaggiato dal punto di vista del portiere, no? L'estremo difensore, tutto sommato, la possibilità di fare il colpaccio ce l'ha, e come? Bah, sì, questo dal punto di vista teorico, diciamo, cioè se il lanciatore fosse una macchina che lancia palloni e il portiere un robot, probabilmente il tiro verrebbe parato nel 70% dei casi, e chiaramente invece entra in gioco la psicologia e quindi la guerra del rigore, ma tutti i giocatori di calcio lo sanno, è una guerra innanzitutto psicologica, però effettivamente proprio perché la palla è un oggetto che viaggia lentamente in aria rispetto appunto a proiettili ben più inevitabili, il portiere avrebbe tecnicamente il tempo di pararlo in gran parte dell'area di porta. E quindi è divertente come un gesto che dal punto di vista tecnico, puramente meccanico, sarebbe alla pari o addirittura vantaggioso per il portiere, diventi, proprio per gli effetti psicologici, diventi invece qualcosa di pericoloso in una partita. È interessante anche qua, andiamo quasi nel campo dei consigli per gli acquisti, l'annotazione che fate nel libretto in merito alle scarpe da calcio, agli scarpini, no? Spesso la pubblicità, che a questo punto definirei quasi ingannevole, ci dice che il tal scarpino garantisce dei determinati effetti o meglio ancora una determinata potenza, no? al calcio. In realtà, certo, dal punto di vista fisico, meglio del piede nudo non c'è nulla. Questo sì, è stata una cosa che ha sorpreso anche noi, perché noi nel libro riportiamo degli studi consolidati in ambito di scienze dello sport, ma il piede nudo in realtà, ma questo in realtà non stupisce dal punto di vista meccanico, ha una maggior coefficiente di restituzione, cioè che è la capacità di restituire l'elasticità di un corpo che lo colpisce, che non la maggior parte delle scarpette. Perché? Fondamentalmente perché le scarpe sono multistrati, cioè hanno degli strati di aria e l'aria non è elastica e quindi viene sprecata una parte di energia elastica. Dopodiché credo che sia ben doloroso e difficile per fare tutta una partita a piedi nudi, però in teoria, quindi forse le scarpette del futuro cominceranno a prendere in esame questa cosa e assomiglieranno più al piede umano. Eh sì, insomma, saranno quasi dei guanti da piede, proprio per garantire la maggiore sensibilità a parità di protezione. Andiamo a concentrarci sul pallone, perché tra l'altro, collega famosissimo che non ha bisogno di presentazioni, Fabio Caressa qualche tempo fa provò così a spiegare il celeberrimo effetto Magnus. Pirlo, cerca il tiro, andrà! Pirlo! Un gol pazzesco di Pirlo, un gol pazzesco, Casillas non ha neanche visto partire il pallone. Ecco, chiaramente da applaudire l'impegno di Fabio nel tentare di spiegare questo effetto, ma in soldoni quello che ci ricordate tramite il vostro simpatico libretto è che altro che pallone levigato uguale pallone perfetto, tutt'altra storia, no professore? Ah, no, assolutamente, perché questi effetti sia di stabilità in aria che di capacità di curvare dalla propria traiettoria in realtà dipendono dalle asperità che si formano. Perché? Perché le asperità sulla superficie di un oggetto che vola creano delle turbolenze, micro turbolenze in aria, e queste turbolenze determinano alla fine appunto la possibilità di avere delle forze laterali che spingono il pallone lateralmente rispetto alla traiettoria, oppure dare maggiore stabilità al volo. Questo con lo Jabulani fu scoperto poco prima dei mondiali del 2010, proprio perché il pallone perfettamente liscio in realtà era più instabile di quello vecchio con le cuciture, e quindi furono aggiunte queste piccole rugosità superficiali che si possono vedere oggi sul modello originale, che peraltro non ha avuto tantissima fortuna. Insomma, diffidate della perfezione, perché la natura è nemica della perfezione, anzi vive del disequilibrio, e credo che i creatori dello Jabulani l'abbiano imparato a proprie spese, proprio perché quell'idea del pallone perfetto era molto astratta, molto teorica. No? Sì, purtroppo gli uomini si muovono su idee astratte spesso, dimenticandosi la natura che ha selezionato nel corso di milioni di anni i migliori modi per volare o per stare in aria. Per esempio appunto il volo degli insetti, di alcuni insetti come il bombo, sono emblematici perché sono oggetti che non dovrebbero volare, invece riescono a volare proprio grazie a delle micro asperità, qualcosa di imprevisto. Infatti, per molti anni dagli entomologi non si è capito come riuscissero a volare questi insettini. Ecco, insomma, prendete esempio da questi insetti quando andate a disegnare i palloni e poi ne riparliamo. La scienza nel pallone, il vostro libro edito da Zanichelli, però offre anche un interessante excursus storico che ci ricorda una cosa importante da non dimenticare, cioè che a pallone si gioca praticamente da sempre e non solo dalla codificazione delle regole avuta in Inghilterra a metà degli 800, ma ben prima, no? Sì, è incredibile, ma il calcio moderno chiaramente nasce, fatto all'età dell'Italia, 1861 il primo regolamento, ma in realtà l'uomo tira calci a più o meno a sfere, diciamo a oggetti delle dimensioni di un pallone moderno dalle prime documentazioni storiche, sicuramente romani ma anche prima, e anzi probabilmente furono proprio le legioni romane che portarono in tutta Europa un gioco simile abbastanza simile a quello del moderno calcio, poi sopravvisse nelle varie aree con vari nomi a livello popolare. E questo è strano, ma secondo me non così tanto, perché dimostra proprio che l'uomo si diverte a lanciare oggetti di cui non riesce a prevedere la traiettoria. e quindi il gioco sta proprio lì. Se noi in fondo lanciassimo degli oggetti che sono perfettamente prevedibili, non sarebbe così divertente osservarli, ecco. E il fatto che sia diffuso in tutto il mondo credo che dica che il cervello dell'uomo è più simile in tutte le razze, in tutte le etnie, e che ci si diverte un po' con le stesse cose. Insomma, la prima sfida è con l'oggetto e poi con l'avversario. Sì, assolutamente. Prima esiste il rapporto, ma credo che anche un calciatore quando incomincia a esercitarsi, prima comincia a prendere dimestichezza con l'oggetto, a capire come si muove, e poi comincia a affrontare l'avversario, a capire come battere l'avversario con ciò che lui ha capito di quell'oggetto straordinario. Ora una breve pausa, poi ancora insieme qui a bordo campo. Che è il pallone. E allora, Nicola Ludwig, grazie per essere stato nostro ospite, grazie soprattutto per aver scritto insieme a Gianbruno Guerrerio questo bel La scienza nel pallone, edito da Zanichelli, e a presto, a risentirci qui a bordo campo su Radio 24. Arrivederci. A bordo campo. Un progetto per accompagnare i canottieri azzurri verso Londra 2012 tra formazione sportiva e formazione accademica, così che anche il dopo carriera di quelli che saranno gli armi protagonisti dei giochi olimpici ormai vicinissimi possa essere altrettanto ricco di successo. È il progetto che oggi vi raccontiamo, vi illustriamo qui a bordo campo, la Jaguar Excellence Academy, e che coinvolge proprio uno sponsor importante come Jaguar e soprattutto la Federazione Italiana Canottaggio. Primo nostro ospite per illustrare questo progetto è proprio il presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Enrico Gandola. Benvenuto presidente. Allora, in cosa consiste la Jaguar Excellence Academy? Jaguar ha deciso di investire sulla formazione degli atleti perché come la federazione ritiene che esiste un collegamento diretto e una sinergia tra la mente e poi il nostro fisico, il nostro corpo. La federazione investe da anni nella formazione culturale dei nostri atleti, abbiamo un college universitario a Pavia e un college juniores a Piediluco, dove i nostri migliori talenti possono studiare ed allenarsi per ottenere il massimo risultato. Partiremo con una selezione ampia di ragazzi per arrivare a selezionarne due, ai quali offrire un percorso formativo ad hoc, un personal trainer che li accompagnerà in una crescita personale legata a dei corsi e a delle esperienze formative anche dal punto di vista culturale, per arrivare ad avere una prestazione fisica ottimale con i nostri allenamenti e anche una performance culturale elevata, in modo da renderli indipendenti e poter affrontare anche il mondo del lavoro, o comunque affrontare con un'arma in più l'agone sportivo. Alla fine di questo percorso di formazione e di selezione, attraverso le valutazioni anche di una serie di commissioni create ad hoc, otterranno una borsa di studio che consentirà proprio di arricchire la loro formazione, vero presidente? In che modo? Quali sono un po' tra virgolette i premi alla fine di questo percorso? Alla fine i premi sono, come ha detto lei, dei master, dei corsi in inglese, delle esperienze in Inghilterra per perfezionare la lingua e dei corsi ad hoc sulla base anche del progresso culturale dei vincitori. Ecco, insomma, qualcosa che paradossalmente nel futuro potrebbe pesare anche di più di una medaglia mondiale e olimpica, no, forse una medaglia alle Olimpiadi è la cosa veramente più importante. Parlava di Inghilterra, tra l'altro in questo progetto c'è anche un interscambio, questo sì, soprattutto sportivo, con Oxford, che insieme a Cambridge è una delle culle del canottaggio moderno. Basti pensare alla secolare sfida lungo il Tamigi tra le due celebri università, no? Certo, i nostri ragazzi avranno la possibilità di dialogare, confrontarsi con gli atleti di questa prestigiosa università, respirare lo spirito universitario ma sportivo di alto livello, e questi scambi sono importanti perché danno sicuramente degli stimoli costruttivi per poter affrontare con maggior convinzione le sedute di allenamento e quindi ottenere dei risultati migliori poi in gara. 2012 in Inghilterra, vogliono dire, è quasi banale ricordarlo, Londra e i Giochi Olimpici che scatteranno il 27 luglio. Che Londra si aspetta per quanto riguarda il canottaggio italiano? Ma certamente sarà un'edizione particolarmente difficile e complicata, perché a Londra è un po' la patria del canottaggio e tutti i paesi del mondo anglosassone, quindi appartenenti al Commonwealth, ex Commonwealth, cercheranno di strappare più titoli possibili. Noi partiamo convinti con un team di professionisti che lavora in completa sinergia per dare ai nostri ragazzi la possibilità di portare a casa delle medaglie. Eh sì, insomma, intanto arriviamoci a Londra, poi ce la giochiamo, diciamo, no? Quando siamo lì ce la giochiamo. Grazie al presidente della Federcanottaggio Enrico Gandola per essere stato nostro ospite, ci ha raggiunto in collegamento uno dei protagonisti del progetto Jaguar Excellence Academy, Andrea Palmisano della Canottieri Agnene, già qualificato per Londra 2012. Allora Andrea, complimenti intanto per la qualificazione raggiunta, che te ne sembra di questa idea della Federcanottaggio? Beh, devo dire un'iniziativa sicuramente molto smart, intelligentissima, perché come dire, gratifica secondo me noi giovani che ci troviamo in due diverse vie, cioè quella sia dello sport che ci accomuna e poi anche quella universitaria, che comunque sembra è un po' un'anomalia, no? Che tanti sportivi riescano a conciliare nello stesso tempo, a collimare lo studio. Quindi il fatto che ci sia un rappresentante così importante come la Jaguar automaticamente fa felici, insomma, noi giovani, soprattutto perché poi per migliorare magari anche la base dell'atleta, ma soprattutto dello sportivo, quindi dal punto di vista delle lingue o del relazionarsi con gli altri, è una cosa secondo me essenziale per una persona. Tra l'altro nel tuo curriculum vedo laurea magistrale in giurisprudenza, quindi insomma sei la prova provata. Sono che un neo laureato da circa, ecco, oggi diciamo mi sono laureato il 16 dicembre. Senti, ma è capitato in qualche esame che il prof t'abbia chiesto un autografo riconoscendoti? No, all'ultimo devo dire che ho dovuto fare un po' di carte false l'ultimo anno universitario, perché ho dovuto sostenere 9 esami e in più anche insomma la tesi, quindi è stato un anno molto difficile, in più il fatto sportivo, quindi della qualifica olimpica, quindi un anno molto particolare e snervante, e nell'ultimo anno comunque ho dovuto insomma dare un pochino più adito al mio curriculum sportivo e quindi metterlo, ecco, in risalto agli occhi anche di alcuni professori, semplicemente per giustificare comunque le mie assenze universitarie nel frequentare le lezioni, quindi solo in questo. Quindi alcuni professori hanno, come dire, sono rimasti un po' stupiti e alcuni hanno pure richiesto sì l'autografo da tifosi italiani, ecco. E allora in bocca al lupo per Andrea Palmisano in vista di Londra 2012, ma anche e soprattutto di quello che sarà il suo futuro sportivo e anche accademico. Staremo a vedere. Altra azzurra che già ha conquistato la qualificazione ai giochi londinesi con il 2 senza in coppia con Claudia Wurzel è Sara Bertolasi, nostra ultima ospite oggi pomeriggio, che però è ancora impegnata anche sui libri universitari, vero Sara? Benvenuta a bordo campo. Ma io mi sono laureata in scienze della comunicazione ed ora sono al secondo anno di specialistica in management delle imprese sportive. Mi piacerebbe continuare la mia carriera lavorativa all'interno del mondo dello sport, però se ci saranno opportunità anche al di fuori del mondo sportivo vorrò sapere cogliere anche quelle. Come te lo immagini Londra 2012? Veramente essere su quella linea di partenza vale una carriera e forse anche di più, eh? Vale una carriera e vale, cioè è un sogno di una vita. Io non mi immagino, quando penso a Londra non mi immagino solamente la partenza, però mi immagino anche tutto il clima delle Olimpiadi, il poter, per esempio, il poter incontrare per strada o all'interno del villaggio olimpico anche atleti di alto livello di altri sport, del pugilato, del tennis o di qualsiasi altro sport olimpico. È questo che avrei voglia di vivere, oltre che la gara sicuramente. Senti, qual è il primo campione o campionessa, toglici la curiosità, a cui chiederesti l'autografo incontrandolo nel villaggio olimpico? Ma se ci fosse ancora Mario Cipollini la chiederei a lui, perché lui è stato io correvo in bicicletta e lui è stato il mio primo modello sportivo, ma oggi probabilmente lo chiederei a Federica Pellegrini. E allora buona caccia all'autografo e alle medaglie per Sara Bertolasi e tutti gli azzurri del canottaggio a Londra 2012. Staremo a vedere poi quali saranno i risultati durante i giochi londinesi e soprattutto nel futuro della carriera e della vita di questi nostri giovani campioni.